Il 6 e il 7 maggio, non sbagliare, vota per una comune onesta. Scegli Donato Supino, finalmente un sindaco che vive la politica come servizio e non come affare. Un voto per il lavoro, per i beni comuni, per i giovani. Vota Sinistra per Como, perché insieme si vince.